Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ødon von Horvath, traduzione di Bruno Maffi. La guerra totale. Tre anni fa le autorità scolastiche pubblicarono un decreto che aboliva, in un certo senso, le vacanze di Pasqua. Difatti, tutte le scuole secondarie ebbero ordini di organizzare in occasione delle feste pasquali un campeggio, e dicendo campeggio si intendeva un corso pre-militare. Gli scolari sarebbero vissuti per 10 giorni in seno alla cosiddetta natura libera, come soldati, divisi in classi, sotto le tende, sorvegliati dai professori. Dei sottufficiali in riposo avrebbero insegnato loro a marciare, a far ginnastica e, a partire dal 14° anno, a sparare. Ben inteso, i ragazzi adoravano tutto ciò e in fondo anche noi professori ci divertivamo a fare gli indiani. Il martedì di Pasqua gli abitanti di un villaggio solitario videro arrivare un potente autobus. L'autista suonò il clacson come se arrivassero i pompieri. Oh, che galline volarono via! I cani abbaiarono, tutto il villaggio accorse. Ci sono i ragazzi della città! Avevamo lasciato la scuola alle 8, erano le 2, ed eravamo davanti al municipio del villaggio. Il sindaco ci diede il benvenuto, il capitano dei carabinieri ci salutò militarmente. Anche il maestro, naturalmente, era sul posto. Ed ecco che arriva il parroco, un tipo rotondo, dall'aspetto benevolo, ha fatto tardi. Il sindaco mi mostra sulla carta la posizione del campo. Un'ora buona di passo normale. Il sergente maggiore è già sul posto, mi dice il capitano dei carabinieri. 2 soldati del genio hanno portato le tende questa mattina con un autocarro militare. Mentre i ragazzi scendono dall'autobus e radunano i loro bagagli, io esamino la carta. Il villaggio è a 761 metri sul livello del mare. Siamo vicini a grandi montagne sui 2000, ma i picchi più alti, coperti di nevi eterne, sono ancora più in là. «Che cos'è?» chiedo al sindaco, indicando sulla carta un gruppo di costruzioni al confine occidentale del villaggio. «È la nostra officina», dice il sindaco. «La più grande segheria della regione. Disgraziatamente è stata chiusa l'anno scorso. L'impresa non rende più», dice, e sorride. «Adesso abbiamo molti disoccupati. È un guaio». Il maestro prende parte alla conversazione. Mi spiega che la segheria appartiene a un trust. E osservo che non ha simpatia né per gli azionisti né per il consiglio di amministrazione. Io neppure, del resto. Il villaggio è povero, mi spiega ancora. La metà della popolazione vive di lavoro a domicilio, con salari di fame. Un terzo dei bambini è denutrito. Sì, dice il capitano dei carabinieri. E tutto questo in seno alla bella natura. Prima della partenza per il campo, il parroco mi prende in disparte e mi dice: «Ascolti, signor professore, vorrei richiamare la sua attenzione su un piccolo particolare. A mezz'ora dal campo c'è un castello che lo Stato ha acquistato e ora ci stanno delle ragazze che hanno su per giù la stessa età dei suoi scolari e corrono a destra e a manca tutto il giorno e anche buona parte della notte. Attenti, dunque, non vorrei udire lagnanze». E sorride. «Starò attento, non per nulla», riprende. «Ma dopo 35 anni di confessionale, una mezz'ora di strada, lascia scettici», sorride. «Mi venga a trovare, signor professore, ho del vino di prima qualità». Ci mettiamo in cammino alle 3. Attraversiamo una gola, poi voltiamo a destra e saliamo a zigzag su una collina. Ai nostri piedi si stende la vallata. L'aria sa di resina. La foresta è lunga. Finalmente i tronchi si diradano. Davanti a noi si apre una prateria, la sede del campeggio. Ci siamo avvicinati sempre più alle montagne. Il sergente maggiore e 2 soldati giocano alle carte, seduti su teli da tenda. Appena ci vedono si alzano di scatto e il sergente si mette sull'attenti. Dimostra 50 anni, ha gli occhiali. Certamente è un bravo uomo. E adesso al lavoro. Il sergente e i soldati insegnano ai ragazzi ad alzare la tenda. Aiuto anch'io. Nel centro dell'accampamento lasciamo un quadrato e vi piantiamo la bandiera. Dopo 3 ore abbiamo finito. I soldati salutano e ridiscendono al villaggio. Ai piedi del pennone abbiamo deposto una cassa contenente i fucili. Sistemiamo i bersagli, soldati di legno in uniforme straniera. Scende la sera. Andiamo al fuoco, cuociamo la minestra. È buona. Cantiamo canzoni da soldati. Il sergente beve e diventa rauco. Si alza il vento. Viene dai ghiacciai, dicono i ragazzi. E tossiscono. Penso al piccolo W. Sì, eri il più piccolo della classe e il più simpatico. Credo che saresti stato il solo a non firmare la lettera contro i negri. Per questo eri destinato a scomparire. Adesso dove sei? Sei stato portato via da un angelo, come nelle fiabe. Ti ha condotto dove giocano i calciatori defunti, dove i portieri sono angeli, e anche il guardaline che sbandiera quando qualcuno corre dietro al pallone. È questa in cielo la maniera di mettersi in offside? Hai un buon posto? Ah, naturalmente. Lassù tutti siedono in tribuna, in prima fila, mentre i trafficoni, quelli che ti cacciavano sempre dietro la porta, stanno dietro dei giganti e non vedono nulla. La notte è calata, è ora di coricarsi. A domani le cose serie, dice il sergente. Dorme con me nella stessa tenda, russa. Accendo la lampada tascabile per vedere l'ora e scopro sulla tela della tenda accanto al mio posto una macchia di un bruno rossastro. Che cos'è? E penso, domani cominceranno le cose serie. Sì, le cose serie. In una cassa, ai piedi della bandiera, ecco la guerra. Sì, la guerra. Siamo in campagna e penso ai due soldati, al sergente maggiore della territoriale che deve ancora prestare servizio, ai due soldati di legno sui quali ci si dovrà esercitare. Penso al preside, a N, a suo padre il fornaio, quello di Filippi. Penso alla segheria che non lavora più, agli azionisti che tuttavia fanno affari d'oro, al capitano dei carabinieri che sorride, al parroco che ama il buon vino, ai negri che non dovrebbero esistere, agli operai che lavorano a domicilio e stentano a campare, alle autorità scolastiche e ai bambini malnutriti e ai pesci. Siamo tutti in campagna, ma qual è il fronte? Il vento soffia, il sergente russa. Che cos'è? Dunque, questa macchia di bruno rossastro. Sangue. Venere col sacco in spalla. Il sole si è alzato. Suona la diana. Ci laviamo nel torrente e prepariamo il tè. Finita la colazione, il sergente dispone i ragazzi in due file secondo la statura. Loro contano, lui li divide in squadre e drappelli. Oggi non spareremo ancora, dice. Cominceremo con un po' di esercizi. Controlla severamente che le file siano a piombo. Socchiude un occhio. Avanti, indietro, il terzo, laggiù, sporge almeno di un chilometro. Il terzo è Z. Mi meraviglio che sia così difficile metterlo in fila. D'un tratto odo la voce di N. Litiga con Z. Qui, idiota! Ehi, ehi, dice il sergente, niente parolacce. Una volta si poteva offendere un soldato, ma ora col tempo è finito. Intesi? N tace. È diventato rosso e mi guarda di sottecchi. Se potesse, penso, ti strangolerebbe volentieri per vendicarsi del rimbrotto. Ne godo, ma non sorrido. Avanti, grida il sergente. La colonna si incammina. I grandi davanti, i piccoli dietro, e scompare nella foresta. Due ragazzi sono rimasti al campo con me. Uno degli M e uno dei B pelano patate e cuociono la minestra. Lavorano con gioia silenziosa. «Signor professore, guardi che cosa sta arrivando», dice d'un tratto M. Guardo, una ventina di ragazze avanzano verso di noi in ordine militare. Portano pesanti sacchi da montagna e come si avvicinano sentiamo che cantano. Cantano con voci acute di soprano canzoni soldatesche. Il giovane B non può trattenersi dal ridere. Hanno visto l'accampamento e si fermano. Quella che le comanda rivolge loro qualche frase e poi si avvicina a noi da sola. 200 metri circa ci separano. Le vado incontro. Facciamo conoscenza. Insegna in una grande città di provincia e le ragazze sono sue allieve. Abitano qui vicino, in un castello. Sono le stesse di cui mi ha parlato il parroco. Riaccompagno la collega. Le ragazze mi guardano con occhi tondi, come mucche al pascolo. Oh, no, reverendo, no, non si preoccupi. Queste ragazze possono essere tutto fuorché attraenti. Sudate, sporche, trascurate, non offrono uno spettacolo piacevole a chi le osserva. La professoressa sembra aver capito i miei pensieri. In questo almeno è rimasta donna. Mi spiega: non ci preoccupiamo dell'apparenza, diamo più valore alla sostanza. Non voglio lasciarmi coinvolgere in discussioni. Mi accontento di dire: ah, e penso che vicino a queste povere bestie perfino N è un uomo. Vede, siamo delle amazzoni, dice la professoressa. Ma le amazzoni sono una leggenda. Voi siete invece una triste realtà, povere figlie traviate di Eva. Penso a Giulio Cesare. Non può entusiasmarsi, lui, per delle veneri col sacco in spalla. Io neppure. Prima di rimettersi in cammino, la professoressa mi spiega che stamattina le ragazze cercano l'aviatore scomparso. Come? C'è stato un incidente di volo? No, no, no. Si tratta di un nuovo gioco tra lo sportivo e il militare per la gioventù femminile. Si nasconde nel bosco un gran pezzo di cartone bianco. Le ragazze partono in ordine sparso e cercano il pezzo di cartone. È in previsione di una guerra, aggiunge, perché possiamo immediatamente essere utilizzate nel caso che un aereo precipiti. Sul fronte interno, naturalmente, poiché purtroppo le donne non vanno in prima linea. Purtroppo! Le ragazze si allontanano a passo cadenzato. Le seguo con gli occhi. Per avere troppo camminato, le loro gambe corte si sono ancor più accorciate e ingrossate. Camminate pure, madri dell'avvenire. La gramigna. Il cielo è di un azzurro delicato, la terra è pallida, tutta la natura è un acquerello dal titolo Aprile. Faccio il giro dell'accampamento, mi inoltro in un sentiero che conduce ai campi. Che cosa c'è dietro quella collina? Il sentiero fa una grande curva e si allontana dal bosco. L'aria è tranquilla, come la pace eterna. Non c'è una voce, non c'è un sussurro. Gli insetti dormono ancora. Dietro la collina, in una conca, c'è una fattoria solitaria. Nessun'anima in vista. Il cane stesso sembra scappato. Mi preparo a scendere il fianco della collina, ma involontariamente mi fermo. Lungo il sentiero che conduce alla fattoria, dietro una siepe, ho visto tre figure ferme. Sono dei bambini che si nascondono, due maschietti e una ragazzina. sui 13 anni loro, sui 15 lei, e tutti a piedi nudi. Che cosa fanno? Perché si nascondono? Aspetto. Ed ecco che uno dei maschietti esce dalla siepe e si avvia nel cortile, ma improvvisamente ha un sussulto e torna a rifugiarsi dietro la siepe. Odo il rotolio di una vettura. Un carro di legna trascinato da grossi cavalli passa lento. Quando è scomparso, il bambino torna nel cortile, si avvicina alla porta di casa e picchia. Forse ha picchiato con un martello, tanto cupo è il rumore. Tende l'orecchio e gli altri due anche. La ragazza si alza in punta di piedi e guarda al di sopra della siepe. È alta e slanciata, penso. Il maschietto torna a bussare ancora più forte. La porta si apre e vedo una vecchia contadina che cammina curva appoggiandosi a un bastone. Si guarda attorno come se fiutasse, ma il ragazzo non si muove. D'un tratto la vecchia grida: «Chi è?» «Perché grida se il ragazzo le sta lì davanti?» Ripete: «Chi è?» Gli passa davanti tastando la terra col bastone. Sembra non averlo visto. Che sia cieca? La ragazza indica la porta aperta. Il gesto ha la forza di un ordine e il bambino entra nella casa in punta di piedi. La vecchia si ferma e ascolta. Sì, è cieca. Un rumore di piatti rotti viene dalla casa. La cieca ha un sussulto, grida: «Aiuto! Aiuto!» Allora la ragazza si precipita su di lei e le chiude la bocca con la mano. Il bambino riappare sulla soglia portando un bastone di pane e un vaso. La ragazza strappa il bastone dalle mani della vecchia. Mi precipito giù dal pendio. La cieca barcolla, inciampa e cade a terra. I tre monelli scompaiono. Aiuto la vecchia. Guaisce. Un contadino accorre. Ha udito l'urlo e mi dà una mano. La portiamo in casa e io racconto al contadino quello che ho visto. Non sembra particolarmente sorpreso. «Sì, sì, l'hanno fatta uscire per poter entrare dalla porta aperta. Sono sempre gli stessi, ma non si riesce mai ad acciuffarli. Rubano come gazze. Sono una vera banda di briganti». «Così piccoli?» Il contadino scrolla la testa. «Sì, hanno rubato anche su al castello dove abitano le ragazze. Una buona metà del bucato. Stia attento che non facciano visita anche al suo campo. Ah, no, terremo gli occhi aperti. Li credo capaci di tutto. È una gramigna. Meriterebbero d'essere sterminati». L'aviatore scomparso. Riprendo il cammino. La cieca si è calmata e mi ha ringraziato. Di che cosa? Era logico che non la lasciassi lì per terra. Ma quei bambini, che progenie dannata. Mi fermo, preso da un curioso stato d'animo. Non mi ribello all'atto brutale e tantomeno al pane rubato. Mi limito a condannare. Perché non mi ribello? Forse perché sono bambini poveri, che non hanno da mangiare? No, non è questo. Il sentiero fa un grande giro. Prendo una scorciatoia. Me lo posso permettere perché ho un ottimo senso di orientamento e troverò il campo. Cammino nel bosco. È qui che cresce la gramigna. Non posso fare a meno di pensare alla ragazza. La vedo in agguato dietro la siepe, accoccolata. È lei il capo dei briganti? Mi piacerebbe vedere i suoi occhi. Certo, non sono un santo. Il bosco infittisce. Cosa vedo laggiù? Un pezzo di cartone bianco con su scritto in lettere rosse aeroplano. L'aviatore è scomparso. Le ragazze non l'hanno ancora trovato. Allora, è qui che sei caduto? Durante un combattimento colpito dall'antiaerea? Eri un bombardiere? Eccoti davanti a me, fracassato, bruciato, carbonizzato. Del cartone. Del cartone. Oh, vivi ancora? Sei gravemente ferito e nessuno ti trova? Nemico o dei nostri? Per che causa muori, aviatore scomparso, del cartone, del cartone? Ed ecco una voce. Nessuno può cambiare le cose. È una voce di donna, triste e calda. Viene dal folto. Scosto cautamente i rami. Davanti a me sono sedute due ragazze del castello. Due ragazze dalle gambe corte e grasse. Una tiene un pettine in mano, l'altra piange. Che cosa mi importa dell'aviatore scomparso? Singhiozza. Perché devo correre per il bosco? Guarda le mie gambe come sono gonfie. Non posso più camminare. Per me potrebbe crepare l'aviatore. Ma io voglio vivere. Oh, anni. Me ne voglio andare. Me ne voglio andare. Non dormire più al castello. Vorrei lavarmi, pettinarmi, farmi bella. È una prigione il castello. Calmati, la consola Anni, pettinando con tenerezza i capelli grossi dal suo viso in lacrime. Che cosa possono fare le ragazze povere come noi? Anche la professoressa ha pianto di nascosto qualche giorno fa. Mia madre dice che gli uomini sono diventati pazzi e sono loro che fanno le leggi. Ascolto. Gli uomini. Anni bacia l'amica in fronte e io mi vergogno di me stesso, come ho giudicato in fretta poco fa. Sì, forse la madre di Anni ha ragione. Gli uomini sono diventati pazzi e quelli che non lo sono non hanno il coraggio di mettere ai pazzi furiosi la camicia di forza. Sì, ha ragione. Anch'io sono un vigliacco. Torna a casa. Giungo al campo. Le patate sono sbucciate, la minestra fuma, il reggimento è rientrato. I ragazzi sono raggianti. Solo il sergente si lamenta di aver male alla testa. Si è stancato, ma non lo vuol confessare. Improvvisamente mi chiede: «Quanti anni mi dà, professore?» «Ha una cinquantina?» «Ne ho 63», dice lusingato. «Ero già nella territoriale durante la guerra. Temo che cominci coi suoi ricordi del fronte, ma ho torto. Non parliamo della guerra», dice. «Ho tre figli grandi». Guarda pensoso le montagne e ingoia un'aspirina. «Un uomo». Gli parlo della banda di masnadieri. Balza in piedi, raduna la truppa, poi l'arringa. Dice che di notte delle sentinelle saranno poste intorno al campo. Quattro ragazzi a turni di 2 ore, uno a est, l'altro a ovest, l'altro a nord, l'altro a sud, poiché il campo va difeso all'ultimo sangue. I ragazzi entusiasti gridano «Urrà!». «È strano», dice il sergente, «ma mi è passato il mal di testa». Nel pomeriggio scendo al villaggio. Ho diverse cose da regolare col sindaco, qualche formalità e il problema dell'approvvigionamento, perché se non si mangia non si può fare il soldato. Dal sindaco incontro il parroco. Non mi molla. Devo andare da lui ad assaggiare il suo vino. Lo bevo volentieri. Il parroco è un tipo cordiale. Attraversiamo il villaggio e i contadini lo salutano. Mi porta al presbiterio per la strada più breve. Giriamo in una laterale. Qui finiscono le case dei contadini. «È il quartiere degli operai a domicilio», dice il parroco e alza gli occhi al cielo. Le case grigie sono strette le une alle altre. Alle finestre aperte non si vedono che bambini, visi gialli, vecchi prima del tempo, dipingono delle bambole. Dietro le stanze sono buie. «Economizzano la luce», dice il parroco, e aggiunge: «Non mi salutano. Li hanno montati contro di me». Affretta il passo e io lo imito. I bambini mi guardano con occhi stranamente fissi. No, non sono dei pesci. Non è scherno il loro. È odio. E dietro l'odio, nelle stanze buie, è seduta la tristezza. Economizzano la luce, perché non hanno luce. Il presbiterio è vicino alla chiesa. La chiesa è un edificio severo, il presbiterio una casa piuttosto civettuola. Intorno alla chiesa c'è il cimitero e intorno al presbiterio un giardino. Nel campanile suonano le campane. Un fumo sale dal camino. Nel giardino dei morti fioriscono fiori bianchi Nel giardino del parroco cresce l'insalata. Laggiù croci, qui cocci di vetro e uno spaventapasseri. L'interno del presbiterio è di una pulizia meticolosa. Non un granello di polvere nell'aria. Nel cimitero accanto tutto ritorna polvere. Il parroco mi conduce nella stanza più bella. Si sieda, la prego. E io vado a prendere il vino. Scende in cantina. Rimango solo. Non mi siedo. Un quadro è appeso al muro. Lo conosco. C'è anche dai miei genitori, che sono molto devoti. Io ho perduto la fede durante la guerra. Era troppo chiedere a un giovane negli anni migliori di capire come Dio permettesse una guerra mondiale. Continuo a guardare il quadro. Dio pende dalla croce. È spirato. Maria piange e Giovanni la consola. Un lampo guizza nel cielo nero e in primo piano, a destra, c'è un guerriero in elmo e corazza, il centurione romano. Mentre guardo il quadro, mi prende la nostalgia della casa paterna. Vorrei tornare bambino, il viso ai vetri, guardare la tempesta che si scatena, le nuvole basse, il tuono, la grandine. Il giorno cade. Penso alla prima donna che ho amato. Non vorrei rivederla. Ritorna a casa. Ed ecco che rivedo la panca su cui sedevo meditando. Che cosa vuoi diventare, professore? O medico? Preferivo professore. Piuttosto che guarire i malati, volevo dare qualcosa ai sani. Una piccola pietra per la costruzione di un avvenire migliore. Le nuvole si addensano. Ecco la neve. Ritorna a casa. Alla casa dove sei nato. Che cosa cerchi ancora sulla terra? La professione non ti dà più nessuna gioia. Ritorna a casa. Be glow when you speak love. How summer day with us away. Too soon, too soon. Speak low. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we are swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon, I feel. Wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old.